con Damiano Ricci di BIM Distribuzione per presentare il film Juliet Naked, tutta un'altra musica di Jesse Perez al cinema da giovedì 6 giugno 2019. Damiano, ben trovato. Ben trovati a tutti voi. Raccontiamolo in breve. Questo è un film tratto da un romanzo di Nick Corby e quindi presenta quella che è la straordinaria galleria dei personaggi umani di questo celebre autore letterario. Ci ricordiamo di film tratti da Nick Corby sicuramente About a Boy, Alta Fedeltà, cioè grandissimi successi e grandissime straordinarie figure, soprattutto maschili. È un autore, è febbre 90, non ce lo dimentichiamo ovviamente. È un autore, Nick Corby, che riesce a delineare con grande passione e con grande precisione dei grandi personaggi irrisolti, trentenni in alcuni casi, ricordiamoci appunto di Alta Fedeltà, quarantenni come in questo caso, tutta un'altra musica. Un altro grande romanzo di Nick Corby che diventa un film. Di che cosa parla? Parla di una coppia, Duncan e Annie, che convivono, diciamo, da diverso tempo. Loro sono una coppia un po' in crisi, nel senso non hanno figli, lei ne vorrebbe uno, lui però non si sente pronto e soprattutto lui è appassionatissimo di un grande personaggio della musica rock scomparso. Questo personaggio si chiama Tucker Crowe, è una rockstar che da 20 anni non pubblica un disco e che in realtà ha pubblicato solamente un album in tutta la sua carriera, ma a detta di Duncan quest'album entra in pieno diritto nella storia del rock, un album straordinario. Complice a un certo punto una demo di questo stesso album chiamato Juliet, la demo si chiama Juliet Naked appunto ed è quello che dà il titolo al film. La demo sarebbe praticamente la registrazione in studio dell'album stesso. Attraverso questa demo in qualche modo viene in possesso Annie e attraverso questa demo Annie e Forrest Tucker entreranno in contatto. Forrest Tucker, come abbiamo detto, era 20 anni che era scomparso dalla scena musicale, ma soprattutto nessuno sapeva più dov'era. È una specie di grande, insomma, icona di queste, insomma, icone sia letterarie che musicali che cinematografiche che a un certo punto scompaiono nel nulla, nessuno sa più che fine hanno fatto. Bene, Annie ritrova il Forrest Tucker e tra loro parte niente poco di meno che una relazione che quindi diventa un triangolo amoroso assolutamente divertente, coinvolgente. Se sembra che io abbia raccontato tutta la storia del film, in realtà questi sono solo i primi 40 minuti perché il film è pieno di tantissimi altri colpi di scena, come ha scritto anche un critico cinematografico italiano, è un film veramente ricchissimo di colpi di scena dove non bisogna neanche alzarsi durante i titoli di coda perché l'ultimo colpo di scena arriva sui titoli di coda, quindi insomma veramente un'altalena di risate e di emozioni, insomma in una delle commedie romantiche più divertenti della stagione, secondo me ovviamente. L'ultima cosa che volevo dire sul film è che il film è stato presentato al Sundance Film Festival e successivamente è stato portato al Torino Film Festival. Bene, cioè noi siamo stati al Torino Film Festival e abbiamo incontrato appunto un critico italiano di cui non rivelerò il nome, che ci ha detto: ragazzi, dopo il quinto film d'autore ho visto questo film, mi sono veramente riappacificato con il mondo, cioè è stata veramente un'esperienza divertentissima. Ecco, speriamo, questo è un film, no, non è un film d'autore se non appartiene alla nostra classica galleria, comunque line-up di film di autore, però siamo sicuri che è una divertente commedia per l'estate. Di questa regia conosciamo altro? Non è certo il regista il punto forte del film, non conosco il suo pedigree, evaderò la tua domanda dicendoti che però c'è un grande cast che non abbiamo ancora menzionato, perché Vai. Tucker Crowe è interpretato da Ethan Hawke, Annie è interpretata da Rose Byrne, che è un'attrice nascente anche a Hollywood, ha interpretato in Stand Family e adesso sarà in diversi film anche della prossima stagione. E invece Duncan è interpretato da Chris O'Dowd, che è un caratterista inglese simpaticissimo che se lo vedete sullo schermo ve lo ricorderete per tantissimi altri film, insomma, inglesi degli ultimi anni. Oltre all'essere brillante e ai tanti colpi di scena, cosa ti ha convinto maggiormente? Mi ha convinto quello che è, insomma, lo spirito delle commedie, dei romanzi di Nick Corby, che io amo moltissimo, e come, insomma, mi ripeto in questo caso, perché nell'universo dei personaggi di Nick Corby ci sono sempre questi personaggi completamente irrisolti, in questo caso quarantenni che non si decidono a crescere, che magari vivono dietro le icone pop, che organizzano la loro vita attraverso il collezionismo. Insomma, ecco, questi tipi di personaggi sono sempre visti da Nick Corby con grande affetto, allo stesso tempo anche con una punta di critica. Se mi permetti una citazione, insomma, da grande appassionato dei romanzi di Nick Corby mi ha colpito perché disse una frase in cui io, insomma, non mi riconosco in parte perché poi ho cominciato a lavorare nel cinema anche per questo, ma che in generale secondo me rappresenta tutta una generazione. La musica pop è stata come un piccolo olocausto nucleare, ha detto in alta fedeltà, perché ha creato una dilagante tristezza che poi ha investito il comportamento e il carattere di un'intera generazione. Ecco, cioè, trovo che in questa piccola frase divertente ci sia un fondo di verità perché, insomma, la mia generazione, io insomma, ho 43 anni e vive veramente, ha vissuto spesso di icone pop e in una vita se ne è fatto una ragione, in un'altra vita ha dovuto disfarsene. Ecco, quindi, insomma, questa è una cosa che mi ha molto fatto empatizzare con i personaggi del film. In quante sale sarà? Esce in 70 sale a partire da giovedì. Quindi buona visione a tutti. Allora, al cinema da giovedì 6 giugno 2019, Juliet Naked, tutta un'altra musica di Jerzy Perez. Un saluto e un ringraziamento a Damiano Ricci di Beam Distribuzione. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Credi un abbraccio a tutti i radioascoltatori. Ciao. Ciao.